Sezione diciottesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto diciottesimo. Già si godeva solo del suo verbo quello spirito beato, ed io gustava lo mio temprando il dolce con l'acerbo. E quella donna, che a Dio mi menava, disse: «Muta pensier, pensa ch'io sono presso a colui ch'ogni torto disgrava». Io mi rivolsi all'amoroso suono del mio conforto, e, quale io allor vidi negli occhi santi amor, qui l'abbandono. Non perch'io pur del mio parlar diffidi, ma per la mente, che non può reddire sovra sé tanto, s'altri non la guidi. Tanto poss'io di quel punto ridire, che, rimirando lei, lo mio affetto libero fu da ogni altro disire. Finché il piacere eterno, che diretto raggiava in Beatrice, dal bel viso mi contentava col secondo aspetto. Vincendo me, col lume d'un sorriso, ella mi disse: «Volgiti ed ascolta, che non pur nei miei occhi è paradiso. Come si vede qui alcuna volta l'affetto nella vista, se lo è tanto che da lui sia tutta l'anima tolta? Così nel fiammeggiar del fulgor santo a ch'io mi volsi, conobbi la voglia in lui di ragionarmi ancora alquanto». E cominciò: «In questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia, spiriti son beati che giù, prima che venissero al ciel, fur di gran voce, sì ch'ogni musa ne sarebbe opima. Però mira ne corni della croce, quel ch'io or nomerò li farà l'atto che fa in nube il suo fuoco veloce. Io vidi per la croce un lume tratto dal nomar Giosuè, com'ei si feo, né mi fu noto il dir prima che il fatto, e dal nome dell'alto Maccabeo vidi muoversi un altro roteando, e Letizia era ferza del Paleo. Così per Carlo Magno e per Orlando due ne seguì lo mio attento sguardo, com'occhio segue suo falcon volando. Poscia trasse Guiglielmo e Rinoardo e il duca Gottifredi la mia vista per quella croce e Roberto Guiscardo. Indi, tra l'altre luci mota e mista, mostrommi l'alma che m'avea parlato, qual era tra i cantor del cielo artista. Io mi rivolsi dal mio destro lato per vedere in Beatrice il mio dovere, o per parole o per atto segnato, e vidi le sue luci tanto mere, tanto gioconde, che la sua sembianza vinceva gli altri e l'ultimo solere. E come, per sentir più dilettanza, bene operando l'uom di giorno in giorno s'accorge che la sua virtute avanza, sì m'accorsio che il mio girare intorno col cielo insieme avea cresciuto l'arco, veggendo quel miracol più adorno. E quale è il trasmutare in picciol varco di tempo in bianca donna, quando il volto suo si discarchi di vergogna al carco? Tal fu negli occhi miei, quando fui volto per lo candor della temprata stella sesta, che dentro a sé m'avea raccolto. Io vidi in quella giovial facella lo sfavillar dell'amor che li era, segnare agli occhi miei nostra favella. E come augelli surti di riviera, quasi congratulando lor pasture, fanno di sé or tonda or lunga schiera, sì dentro a lumi sante creature volitando cantavano e faciansi or di ori orelle in sue figure. Prima cantando a sua nota moviensi, poi diventando l'un di questi segni un poco s'arrestavano e taciansi. O diva Pegasea, che gli ingegni fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le città dei regni. Illustrami di te, sicch'io rilevi le lor figure com' io l'ho concette. Paia tua possa in questi versi brevi. Mostrarsi dunque 5 volte 7 vocali e consonanti, ed io notai le parti sì come mi parver dette. Diligite justitiam primai fur verbo e nome di tutto il dipinto. Qui iudicati sterram fur sezzai. Poscia, nell'emme del vocabol quinto rimasero ordinate, sì che Giove pareva argento lì d'oro distinto. E vidi scendere altre luci dov'era il colmo dell'emme, e lì quetarsi cantando credo il ben che a sé le muove. Poi, come nel percuoter de ciò chiarsi surgono innumerabili faville, onde gli stolti sogliono augurarsi, risurger parve quindi più di 1000 luci, e salir qual assai e qual poco, sì come il sol che l'accende sortille. E, quietata ciascuno in suo loco, la testa e il collo d'un'aquila vidi rappresentare a qual distinto foco. Quei che dipinge lì non ha chi il guidi, ma esso guida, e da lui si rammenta quella virtù che forma per li nidi. L'altra beatitudo, che contenta pareva in prima d'ingigliarsi all'emme, con poco moto seguitò l'amprenta. O dolce stella, quali e quante gemme mi dimostraron che nostra giustizia effetto sia del ciel che tu ingemme. Perch'io prego la mente in che s'inizia tuo moto e tua virtute, che rimiri ond'esce il fummo che i tuoi raggi vizia. Sì, che un'altra fiata omai s'adiri del comperare e vender dentro al templo che si murò di segni e di martiri. O milizia del ciel, cui io contemplo, adora per color che sono in terra, tutti sviati dietro al malo esemplo. Già si solea con le spade far guerra, ma or si fa togliendo or qui vilo pan che il pio padre a nessun serra. Ma tu, che sol per cancellare scrivi, pensa che Pietro e Paolo che moriro per la vigna che guasti ancor son vivi. Ben puoi tu dire, io fermo il disiro, sia colui che volle viver solo e che per salti fu tratto a martiro, ch'io non conosco il pescator né Polo. Fine del canto 18.